La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi, 24 secondi, Oscar Giannino qui in diretta agli studi di Milano. Di una. Calorosissima, ancora troppo calda. Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast e vi dico subito di che cosa parliamo. Lo spunto, e quindi il nostro ospite, è quello dato dalla presentazione del rapporto COP 2016 e questo rapporto quindi consente di fare un punto di un segmento molto importante della grande distribuzione italiana sui consumi. Perché questo? E vi dirò quindi la domanda per chi vuole intervenire. Perché, come sapete, siamo freschi dalla conferma da parte dell'Istat della stima del secondo trimestre del PIL italiano 2016, che ha deluso molto il governo, che ha fatto scrivere ai giornali il giorno prima della correzione della stima che si aspettava col segno più, perché la stima preliminare, quella del 13 di agosto, era crescita zero. Siamo tornati a una crescita congiunturale zero, quindi quella congiunturale è sul trimestre precedente, ovviamente. E abbiamo alle spalle una delusione crescente, per così dire, sulla crescita del PIL, per due ragioni. Primo, perché se andiamo retrospettivamente dal primo trimestre del 2015, la crescita congiunturale, cioè sull'ultimo del 2014, era più 0,4%, e poi nei successivi tre trimestri del 2015 è andata sempre scendendo la crescita congiunturale, cioè siamo passati da più 0,4, poi più 0,3, più 0,2, più 0,1, ed era evidente quindi la frenata italiana. Era una frenata italiana però nel 2015, nella quale c'era un accenno di speranza, perché il contributo a un andamento del PIL, sia pure in frenata verso l'aumento, il contributo positivo era rappresentato dalla domanda interna, cioè dalla ripresa dei consumi, mentre l'apporto della domanda estera, quindi dell'export, era in frenata per via della crisi sempre più manifesta degli ex paesi BRICS, cioè quelli emergenti. Però sembrava che la ripresa dei consumi italiani fosse ingranata, e siccome la parte più rilevante del PIL italiano è quella rappresentata dalla domanda interna, sembrava un argomento oggettivo fattuale che potesse alimentare l'ottimismo del governo. Il primo trimestre del 2016 è stato più 0,3 e quindi sembrava invertita la tendenza alla frenata del 2015, quindi bene, benissimo, anzi sapete che il governo aveva un'aspettativa di crescita più 1,2 quest'anno, più 1,6 l'anno prossimo, se non che il secondo trimestre purtroppo conferma la frenata totale, crescita zero, governo deluso. È evidente che quest'anno mancheranno 0,4 punti di PIL almeno alle attese di crescita del governo, quindi faremo più deficit e così via. Ma il problema è un altro, e il problema è che purtroppo in questa frenata italiana sparisce quell'elemento positivo, cioè il contributo positivo della domanda interna e dei consumi al PIL italiano. Torniamo ad avere un modesto apporto positivo dell'export, che si era comportato benissimo negli anni dal 2011 fino al 2015, gli anni della grande crisi, della diminuzione dei consumi e del reddito degli italiani, però questa volta i consumi frenano tantissimo, cioè nel secondo trimestre l'aumento congiunturale dei consumi italiani era più 0,1%, appena percettibile, gli investimenti, che sono l'altra voce della domanda interna, meno 0,3, e quindi ovviamente la crescita alla fine si è fermata a zero. Di solito, e arrivo alla domanda prima di presentarvi l'ospite e far parlare lui, in questa ripresa della domanda interna, dei consumi, se andavamo ad analizzare poi gli andamenti dei diversi segmenti della distribuzione commerciale italiana, era evidente che c'era un grave problema irrisolto con decine di migliaia di piccole imprese commerciali che sono sparite, quelle di piccole dimensioni, mentre la crescita era più sostenuta ovviamente al crescere della grande distribuzione delle superfici, il che significa dell'ottimizzazione delle strategie di acquisto dei prodotti, di adattamento dell'offerta su scaffale dei prodotti al monitoraggio costante dell'andamento delle scelte rispetto al minor reddito pro capite, che comunque resta per gli italiani molto rilevante all'inizio degli anni di crisi. Gli italiani cambiano nei gusti per tipologia di prodotto e così via, e ovviamente tutto questo si può ottimizzare al meglio nella grande distribuzione, che fa di questa offerta ottimizzata e dello studio delle abitudini dei consumi degli italiani una delle leve fondamentali per fare risultati anche quando le cose vanno male. E quindi sì, era chiaro che c'era una logica di questo tipo. Il problema è che sembra che in questa frenata si torni a ridimensionare gli andamenti anche della grande distribuzione. Allora, questo è quello che abbiamo alle spalle per capire. E adesso tentiamo di capire che cosa esce da questo rapporto, cioè se ci sono segni che confermano, ohimè, la nuova frenata, oppure se ci sono segni tale per cui questa nuova frenata e la crescita congiunturale zero con consumi che tornano bassissimi, in realtà ha nel rapporto, in quello che hanno rilevato le COP e nelle abitudini di consumo, negli andamenti di questi ultimi mesi, anche qualche segno più positivo su cui fare affidamento. La domanda che faccio a voi è se come consumatori, se ci vuole telefonare qualcuno anche che lavora nella grande distribuzione, dateci la vostra opinione, ma se voi come consumatori al ritorno dall'estate in realtà avvertite e riproducete anche nel vostro comportamento di spesa familiare un comportamento volto alla prudenza assoluta, non a crescere la spesa, oppure no? Mi interessa molto perché è una delle componenti queste della fiducia e delle aspettative degli italiani. Siamo tornati anche a un ribasso molto forte della fiducia sia delle imprese che delle famiglie, e questo contribuisce, come ovvio, perché è l'aspetto psicologico della crescita e di che cosa ci si aspetta. Allora, per spiegarci invece rispetto agli andamenti dei consumi che cosa le COP rilevano, abbiamo con noi il direttore dell'ufficio studi della COP. L'ufficio studi è quello che ha messo insieme appunto il rapporto COP 2016 che è stato presentato ieri. Albino Russo, grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, intervengo molto volentieri. Allora, innanzitutto, si ritrova più o meno nella sintesi che ho fatto? Direi assolutamente sì. Quello che noi stimiamo sull'andamento del 2016 è un PIL che cresce dello 0,6%, quindi poco sopra il punto percentuale, e una spesa della famiglia per tutti i prodotti che acquistano superiore all'1%, l'1,1%. Quindi in sostanza nel 2016 i consumi delle famiglie dovrebbero andare al doppio della velocità rispetto al PIL. Sì. È abbastanza. E avremo però un PIL che aumenta nel 2016 meno di quanto non sia avvenuto nel 2015. A gennaio noi avevamo fatto una previsione dell'incremento dei consumi di circa l'1,4%, l'1,5%. Vediamo oggi una riduzione di questo trend, quindi in sostanza siamo ancora nella macroeconomia dello zero virgola, sì. Dove le famiglie stanno facendo fino in fondo la loro parte. Quello che forse può essere aggiunto all'ottima sintesi iniziale è che sono le imprese, non solo le esportazioni, ma anche gli investimenti delle imprese che oggi mancano al PIL del paese. In Germania gli investimenti delle imprese sono il 20% del PIL, sì. In Italia oggi sono il 16,5%, mancano solo lì 3,5 punti di PIL tutti gli anni. Pensate, cari ascoltatori, che noi se torniamo indietro ai livelli, naturalmente attualizzandoli al valore, agli andamenti dell'indice dei prezzi, quindi con un deflatore degli investimenti, per ogni voce c'è un deflatore diverso, e quindi non pensate al deflatore dell'indice dei prezzi al consumo, però se attualizziamo a valore 2016 il livello degli investimenti 2008, pre-crisi, 2007 anzi, pre-crisi, ecco, mancano 25 punti percentuali di investimenti nel nostro paese rispetto ad allora. È una componente mostruosa. E anche nel secondo trimestre l'andamento degli investimenti fissi lordi è stato negativo rispetto al trimestre precedente. Quindi questa è la prima priorità. Ricordate quello che ha detto Draghi ieri. Oggi tutti i giornali vi hanno riproposto quello che Draghi ieri ha detto, rivolgendosi esplicitamente alla Germania. Venendo meno, di solito il banchiere centrale non cita paesi per paesi chiedendo loro interventi sulla bilancia pubblica su cui non ha competenza. Ieri ha invitato, è vero, i tedeschi che hanno spazio fiscale nel loro bilancio che è inattivo, non è il saldo primario, è inattivo in generale, e quindi siccome avete spazio fiscale ha detto aumentate gli investimenti pubblici e i consumi pubblici, perché questo aiuta anche gli altri paesi. Però ha anche detto, questi giornali non ve lo hanno sottolineato, chi invece non ha spazio fiscale, cioè come l'Italia che chiede di fare più deficit, quelli dovrebbero diminuire le spese e le tasse per crescere di più. Però e gli investimenti, ha citato esplicitamente gli investimenti, su questo le imprese e anche gli investimenti pubblici sono una voce bestiale che manca rispetto al 2007-2008 nel nostro paese. Se questi sono i numeri generali, quindi numeri generali non troppo soddisfacenti, anzi rispetto a quello che si aspettava il governo abbastanza insoddisfacenti, che cos'è che frena in particolare? Quali tipi di consumi rileva il sistema Coop che stanno andando un po' meno meglio, meno bene di quanto non ci si aspettasse? Dei consumi è una ripresa molto selettiva, non cresce tutto, anzi c'è qualcosa che va su e qualcosa che va giù. Le famiglie stanno facendo continuano a fare una continua revisione del loro modello di spesa e premiano gli spazi del loro budget familiare o quelli che da più tempo erano rimasti compressi o quelli che gli danno le maggiori soddisfazioni. Cioè qui è facile descrivere quello che è avvenuto negli ultimi 12 mesi nelle tasche degli italiani. Gli italiani hanno con molta parsimonia cambiato l'auto, avevamo un parco auto tra i più vecchi del mondo. E questa è la voce che ha più contribuito, la manifattura è quella, insomma. Anche se qui è vero, è quello che ha spinto anche tutta l'area del nord-ovest nel 2015, che ha dato un impatto importante al PIL del paese, ma qui va sottolineato che se a volume la voce trasporti cresce nel 2015 di oltre 5 punti percentuali, in valore, a valori correnti, cresce di meno della metà, del 2,4%. In sostanza cosa vuole dire? Che gli italiani, che magari al giro precedente avevano comprato un'auto di fascia B o di fascia C, questa volta si sono accontentati di un'auto più piccola, la Panda è, lo sanno tutti, l'auto di gran lunga più venduta d'Italia. E tutte le auto in graduatoria sono delle macchine piccole. Qui viene avanti un'altra delle caratteristiche della ripresa dei consumi, una sobrietà e, se vogliamo, una maggiore intelligenza di questi consumi. Gli italiani mettono i soldi in maniera molto più oculata di quanto non facessero un tempo, li suddividono con più intelligenza tra le diverse voci di spesa e li spendono lì dove hanno più soddisfazione. E questo, ad esempio, è il caso dei viaggi, della ricreazione, diciamo, del tempo libero e della cultura. Il rapporto quest'anno inoltre introduce un altro tema, che è quello dell'impatto della tecnologia sul modello di spesa. Gli italiani, infatti, noi li abbiamo chiamati i nuovi italiani, hanno imparato ad usare internet, quando internet è entrata nel telefono. Non hanno mai amato il computer di casa, ma sono sempre stati fanatici del telefonino. Nell'utilizzo che rilevate voi, e anche questo mi interessa, come lo interfacciate direttamente nel vostro sistema per consentire scelte dirette sugli smartphone di consumo. Voi rilevate che gli italiani usano il telefonino per comparare prezzi, o anche nel vostro canale è possibile determinare acquisti diretti nel vostro canale? Non stiamo parlando, cari ascoltatori, di comprare le cose su eBay o su Amazon, quello è scontato. Nostro canale, ora, i consumatori badano sempre di più a quello che accade online nella scelta alimentare. L'importanza del brand, della marca negli scelti alimentari è precipitata negli ultimi anni, oggi viene dopo molte altre caratteristiche del prodotto, e molte delle scelte originano negli scambi orizzontali di informazioni tra i consumatori online, in particolare sui social media. Questo diventa acquisto online anche di cibo, di prodotti grocery, solo in piccola parte. È vero che gli acquisti grocery crescono del 34% anno su anno, ma è pur vero che rappresentano ancora meno di mezzo punto percentuale sul totale dei consumi alimentari. Poca roba. Invece io credo che sarà fondamentale nel futuro del nostro settore rendere l'esperienza di acquisto nel supermercato più coerente con le nuove modalità degli acquisti online. Cioè il dilemma della grande distribuzione è quella di servire tutti, quindi di servire la massa come ha sempre fatto, ma in maniera individuale, raccontando e proponendo qualcosa di diverso al singolo individuo. Anche perché quando si ha un ottimo strumento, il vostro è tradizionalmente quello che è venuto prima nella storia dell'evoluzione delle card italiane nelle grandi catene di distribuzione, e poi per via delle cooperative, proprio per il tipo di struttura giuridica che offre il servizio, l'affiliazione, che naturalmente è un'affiliazione che con la carta consente alla cassa di avere un database che monitora gli acquisti, le trasformazioni degli acquisti, che può profilare il cliente, è uno strepitoso strumento per, non voglio dire costruirsi l'offerta, ma per inseguirla, proporle, eccetera, eccetera. E così si fa abbastanza o non ancora? Ma noi abbiamo sempre avuto una certa ritrosia ad entrare nel privato delle scelte d'acquisto del consumatore. Che è un tema delicatissimo, quello della privacy. È un tema delicatissimo. Sì. Da noi chi passa alla cassa non è un cliente, ma è il proprietario dell'azienda, e quindi viene trattato con tutti i riguardi del caso. È evidente però che una riflessione su questo punto è necessaria, è in corso. E si stanno individuando delle modalità per rendere più empatico il punto vendita nei confronti di un cliente che ha voglia di essere riconosciuto, che vuole essere riconosciuto come individuo e non come un numero in una schiera molto più ampia di consumatori. Cioè, è un tema, gli italiani sono da un lato preoccupati dell'invasione della privacy, dell'utilizzo dei nuovi media, ma dall'altro ne apprezzano le potenzialità in termini di maggiore servizio. Certo. Senta, io adesso le faccio una domanda, poi la risposta me la dà dopo il minuto di informazioni di servizio sul traffico che abbiamo sempre a quest'ora. Quanto pesa in questo andamento dei consumi, insomma sì, che riprendono, ma riprendono con 0,1%, insomma, quanto pesa, oltre alla diminuzione del reddito pro capite, ovviamente in generale come dato nazionale, che insieme alla perdita dei punti di PIL sono le due misure più rilevanti del disastro cui ci portiamo dietro, e ancora molti anni purtroppo a questi ritmi dovremo impiegare per tornare ai punti del pre-crisi, però quanto conta la cosa su cui Banca d'Italia l'anno scorso ci ha dato uno strumento, diciamo, di rilevazione empirica è molto precisa, cioè la distribuzione della ricchezza totalmente diseguale e con la simmetria crescente per classi di età. Io ricordo a tutti, molte volte ci siamo tornati sopra su questo dato rilevato dalla Banca d'Italia, da 95 a oggi, fatto pari a 100 il livello patrimoniale degli over 65 e di chi ha meno di 35 anni in Italia, ecco, in 20 anni, fatto pari a 100 quello degli over 65 sta a 160, fatto pari a 100 quello di chi ha meno di 35 è passato da 100 a 40. E questo dà un'idea mostruosa di quanto l'ascensore sociale non funzioni più nel nostro paese in termini intergenerazionali. Ecco, la mia domanda è: quando il più della ricchezza è sempre di più è concentrata nelle mani di anziani, come si fa a tornare a livelli di consumo? Molti dicono infatti non ci si torna, decrescita felice, però la risposta a questa domanda e tutte le considerazioni che ne conseguono tra un minuto. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati a trarre spunto dal rapporto COP 2016 sull'andamento dei consumi italiani, in un quadro generale però che di una crescita che delude del nostro paese. Abbiamo chiesto al nostro ospite, il direttore dell'ufficio studi di COP, Albino Russo, di dirci qualcosa su cosa rilevano loro di questa specie di elder economy, l'economia dei sempre più anziani. Questa cosa ovviamente pesa moltissimo nel tipo di consumi. Sentiamo rapidamente anche alcuni ascoltatori che ci hanno telefonato e che sono in linea. Cominciamo con Luigi da Milano. Luigi, prego. Buongiorno dottor Giannino. Allora, io sono consulente finanziario, sì. E con la mia professione ho un occhio diciamo di riguardo su quelli che sono i trattamenti di denaro. Sì. Io sinceramente negli ultimo anno, sì, rispetto agli anni passati, ho visto un giro di denaro, di nero, di persone che pagavano qualsiasi cosa, ma andando in giro al supermercato, parlate delle coppe, i prezzi a 100-200 euro cash, andare quest'estate all'albergo, si paga l'albergo cash, quell'altro cash, tutta gente che usava migliaia di euro cash che io non ho mai visto negli anni passati. Ok, però un conto è cash, però è registrata la spesa al supermercato, non è nero, cioè attenzione. Poi altro conto è se lei rileva che nei pagamenti di servizi, nell'ultimo segmento dell'offerta, è in nero senza fattura, quello è nero, ma il cash, se vai al supermercato o al ristorante paghi cash o paghi con la carta, però è tutto è registrato. Anna Maria da Prato, prego Anna Maria. Sì, buonasera, non capisco che cosa significhi registrato, perché in realtà se io non ho una tessera fedeltà non sono registrato proprio da nessuna parte. Questo è un inciso da parte mia, che sono una bancaria vicina ai problemi di antiriciclaggio. Comunque, detto questo, non avevo chiamato per questo, ma quanto perché da ieri seguo con molto interesse questa è uscito il rapporto delle coppie, in quanto io il mio piccolo osservatorio, avendo una famiglia con tre figli, adesso sono fuori casa e posso testimoniare, insomma, al dottore direttore dell'ufficio studi, che secondo me il tempo del mega supermercato è assolutamente tramontato. Ve lo posso dire dal mio osservatorio, che è la macchinetta del caffè al lavoro, in cui ci confrontiamo con le colleghe. Quindi si torna a commercio di prossimità, dice Anna Maria. Più che al commercio in prossimità, questi mega mostri, perché c'è problemi di tempo. Ma però il supermercato, attenzione, non è l'ipermercato o il centro commerciale, sono segmenti diversi della grande distribuzione. Quando si parla di supermercato stiamo parlando di superfici di centinaia di metri quadrati, non di migliaia. Quindi la crisi delle grandissime aree commerciali è certificata quella da anni, non fosse altro anche per i valori immobiliari rispetto ai lavori non compiuti. Altra cosa era l'andamento invece positivo dei segmenti dei supermercati in questi anni di ripresa della crescita, e comunque andavano meno peggio anche quando i consumi avevano segno negativo rispetto agli iper e ai centri commerciali. Allora, Albino Russo, torniamo a tutti questi diversi aspetti. Gli anziani quanto contano? Gli anziani sono la parte più importante del paese. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un'escalation del tema dei millennials, che è fondamentale, ma che in Italia purtroppo sono pochi. Sono 8 milioni di persone, quando le generazioni più adulte, la cosiddetta generazione zero, e la generazione più giovane dei baby boomers sono quasi 40 milioni. Millennials, peraltro, in Italia sono dei trendsetter dimenticati, stanno insegnando le nuove tecnologie ai loro genitori o ai loro nonni, ma non riescono a prenderne il posto nella società italiana. È un dato per tutti che ho trovato allarmante: il consumo di psicofarmaci negli under 35 in Italia è cresciuto del 100% tra le donne e del 50% tra gli uomini. Sono una generazione ad elevatissimo potenziale, e purtroppo è un peccato che non riusciamo a... Italia non per giovani, ma a chi dice più nero, lei che dice? Ma... È evidente che il sommerso è uno dei grandi difetti dell'economia nazionale, ma il PIL lo registra allo stesso modo. Io punterei invece l'attenzione correttamente sui divari generazionali. E devo dire anche sui divari nord-sud, perché sugli andamenti di consumo stiamo parlando di due paesi diversi, come è evidente, visto che i livelli di reddito medio e mediano delle aree del paese sono divergenti, con divari del 40, 50 e nei punti di massimo anche del 60%, quindi siamo X paesi diversi, non solo paese. Intanto, siccome il tempo è finito, grazie a Beno Lusso, grazie a chi ha telefonato, e vi ricordo che anche domani mattina dalle 10 alle 12 torna Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminario e Renato Cifarelli, con tante novità, non mancate, dalle 10 alle 12 domani mattina in diretta su Radio 24.